Secondo canto del Purgatorio, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Registrazione di pubblico dominio effettuata per LibriVox da Filippo Gioachin. Purgatorio, secondo canto. Già era il sole all'orizzonte giunto, lo cui meridian cerchio coverchia Gerusalem col suo più alto punto, e la notte che opposita a lui cerchia uscia di Gange fuor con le bilance che le caggion di man quando soverchia, sì che le bianche e le vermiglie guance là dov'i era della bella aurora per troppa etate divenivan rance. Noi eravam lunghesso mare ancora, come gente che pensa a suo cammino, che va col cuore e col corpo dimora. Ed ecco, qual, sorpreso dal mattino, per li grossi vapor, Marte rosseggia giù nel ponente, sovra il suo almarino. Cotal m'apparve, s'io ancor lo veggia, un lume, per lo mar venir sì ratto, che il muover suo nessun volar pareggia. Dal qual com'io un poco ebbi ritratto l'occhio per domandarlo, duca mio, rividi il più lucente e maggior fatto. Poi d'ogni lato ad esso m'apparìo, un non sapeva che bianco, e di sotto a poco un altro a lui uscio. Lo mio maestro ancor non facea motto, mentre che i primi bianchi apparver ali. Allor che ben conobbe il galeotto, gridò: «Fa, fa che le ginocchia cali! Ecco l'angel di Dio, piega le mani! Omai vedrai di sì fatti ufficiali! Vedi che sdegna gli argomenti umani, sì che remo non vuol, né altro velo che l'ali sue tra liti sì lontani. Vedi come là dritte verso il cielo, trattando l'aere con l'etterne penne, che non si mutan come mortal pelo. Poi, come più e più verso noi venne l'uccel divino, più chiaro appariva, perché l'occhio da presso non sostenne, ma chinai il giuso, e quei sen venne a riva con un vasello snelletto e leggero, tanto che l'acqua nulla ne inghiottiva. Da poppa stava il celestial nocchiero, tal che faria beato pur descripto, e più di 100 spirti entro sediero. In ex situ Israel d'Egitto cantavan tutti insieme ad una voce con quanto di quel salmo è poscia scritto. Poi fece il segno lor di Santa Croce, ond'ei si gittar tutti in su la piaggia, ed el sen gì come venne, veloce. La turba che rimase lì, selvaggia parea del loco, rimirando intorno come colui che nove cose assaggia. Da tutte parti saettava il giorno lo sol, c'avea con le saette conte di mezzo il ciel cacciato capricorno, quando la nova gente alzò la fronte ver noi, dicendo a noi: «Se voi sapete, mostratene la via di gire al monte». E Virgilio rispuose: «Voi credete, forse, che siamo esperti d'esto loco, ma noi siamo peregrin come voi siete. Dianzi venimmo innanzi a voi un poco per altra via che fu sì aspra e forte che lo salire omai ne parrà gioco. L'anime che si fuor di me accorte per lo spirare, chi era ancor vivo maravigliando diventaro smorte. E come a messagger che porta ulivo tragge la gente per udir novelle e di calcar nessun si mostra schivo, così al viso mio s'affissar quelle anime fortunate tutte quante, quasi obliando dire a farsi belle. Io vidi una di lor trarresi avante per abbracciarmi con sì grande affetto che mosse me a farlo somigliante. Oi ombre vane, fuor che nell'aspetto, tre volte dietro a lei le mani avvinsi e tante mi tornai con esse al petto. Di maraviglia credo mi dipinsi, perché l'ombra sorrise e si ritrasse, e io seguendo lei oltre mi pinsi. Soavemente disse ch'io posasse. Allor conobbi chi era e pregai che per parlarmi un poco s'arrestasse. Rispuosemi, così com'io t'amai nel mortal corpo, così t'amo sciolta, però m'arresto, ma tu perché vai? Casella mio, per tornar altra volta là dove io son, fo io questo viaggio, diss'io, ma a te com'è tanta ora tolta? Ed egli a me, nessun m'è fatto oltraggio, se quei che leva quando e cui li piace, più volte m'ha negato esto passaggio, che di giusto voler lo suo si face. Veramente da 3 mesi egli ha tolto chi ha voluto entrar con tutta pace, ond'io, ch'era ora alla marina volto, dove l'acqua di Tevero s'insala, benignamente fu da lui ricolto. A quella foce a elli or dritta l'ala, però che sempre quivi si ricoglie qual verso Acheronte non si cala. E io, se nuova legge non ti toglie memoria o uso all'amoroso canto che mi solea quetar tutte mie doglie, di ciò ti piaccia consolare alquanto l'anima mia che, con la sua persona venendo qui, è affannata tanto, amor che nella mente mi ragiona, cominciò elli allor sì dolcemente che la dolcezza ancor dentro mi suona. Lo mio maestro e io e quella gente che eran con lui parevan sì contenti come a nessun toccasse altro la mente. Noi eravam tutti fissi e attenti alle sue note, ed ecco il veglio onesto gridando: che è ciò, spiriti lenti? Qual negligenza, qual stare è questo? Correte al monte a spogliarvi lo scoglio ch'esser non lascia a voi Dio manifesto. Come quando, cogliendo biado o l'olio, li colombi adunati alla pastura, queti, senza mostrar l'usato orgoglio, se cosa appare ond'elli abbian paura, subitamente lasciano star l'esca, perché assaliti son da maggior cura. Così vid'io quella masnada fresca lasciar lo canto e fuggir ver la costa, com'om che va né sa dove riesca, né la nostra partita fu men tosta. Fine del secondo canto del Purgatorio.